Letture di Radio 24. Una partita di calcio tra ragazzini di 13 anni può tirare fuori il lato peggiore degli adulti. È successo anche la scorsa domenica, quando un match della categoria esordienti nel Trevigiano è finito a insulti razzisti nei confronti di un giocatore. Forse l'arbitro ha esagerato nel verbale, ma quel che è certo, come osserva il segretario della squadra ospitante, se i genitori stessero a casa sarebbe meglio per tutti. Da una parte c'è il verbale di un giovane arbitro che parla di insulti razzisti contro un calciatore esordiente di colore. Dall'altra ci sono le testimonianze di una ventina di genitori che negano tutto. Negano i genitori accusati di aver pronunciato le frasi razziste e quelli della squadra offesa. In mezzo c'è l'ennesima polemica sui cori xenofobi negli stadi, con l'attaccante Stefano Okaka che arriva a invocare misure drastiche. Quelle persone sarebbero da arrestare. E i vertici veneti della FIGC, che per bocca del presidente Fiorenzo Vaccari minimizzano. In A succede tutti i giorni, ma non si fa tutto questo cancan. Le regole sulla responsabilità della squadra vanno riviste, ma qui si sta esagerando sul nulla e questo fa male soprattutto ai ragazzi. Perché questa volta Balotelli e la Serie A non c'entrano. Bersaglio degli insulti durante una partita esordienti del 19 marzo è stato un dodicenne del Casier d'Osson, Treviso. Il racconto di quel sabato pomeriggio è contenuto nel referto arbitrale. Dal decimo del terzo tempo a fine gara, dunque per una decina di minuti, i sostenitori del Silea proferivano insulti discriminatori di origine razziale verso un giocatore avversario di colore. Tra i primi a commentare l'episodio, il presidente del Casier d'Osson, Flavio Ruzzenente. «Non ero alla partita», ha premesso nelle prime dichiarazioni, «ma il referto è chiaro. Non si può fare finta di niente di fronte a fatti di tale gravità. Mi auguro che il Silea faccia pagare l'ammenda ai genitori». A distanza di poche ore, però, solo la premessa viene ribadita. «È stato montato un caso esagerato», dice. «Non ci sono stati cori o singoli insulti. Nessuno ha sentito nulla. Mi hanno chiamato i genitori per dirmi che è un errore, che testimonieranno per il Silea». E il giovane calciatore? Vive qui, fa la prima media, gioca con noi da un paio d'anni col fratello. Nemmeno lui si è accorto di nulla, così in campo. Speriamo che non debba accorgersene dai giornali. Sono 12 genitori del Casier che testimonieranno a favore dei 6 del Silea. Testimonieranno tutti, per dire che di insulti razzisti non ce ne sono stati, che è solo un equivoco, afferma Dario Liberale, dirigente del Silea. Ma il verbale dell'arbitro afferma il contrario. È giovane, forse si è confuso. È stato ripetuto il nome del nostro Romeo con la R arrotata e lui a 30 metri avrà capito nero. Aggiunge il presidente Vaccari, in prima istanza l'arbitro ha sempre ragione, ma un arbitrino di 16 anni che ha scritto una frase potrebbe aver frainteso. È successo di recente, sempre in Veneto, in una partita eccellenza. L'arbitro ha attribuito frasi razziste ai tifosi della squadra di casa, invece arrivavano da quelli ospiti. Le frasi però ci sono state. E per quanto gli arbitri siano giovani, si comincia a 15 anni, l'unica cosa che fa fede è il loro rapporto, dice il segretario regionale dell'associazione arbitri Lucio Zavarise. Vogliamo forse dire che si è inventato tutto? Lo esclude Mario Vincenzi, segretario del Casier. Qualcuno di sicuro ha esagerato. Pare che un nonno, dopo l'espulsione, abbia detto «tutta colpa di quello nero». Sicuro che abbia usato queste parole? Guardi, di sicuro posso solo dire che se i genitori stessero a casa, sarebbe meglio per tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il ragazzino e le frasi razziste, i genitori ultra contro l'arbitro, a firma di Alessandra Mangiarotti dal Corriere della Sera di domenica 27 marzo. Letture di Radio 24. L'Egitto sta muovendo i primi passi verso una democrazia compiuta e va per questo sostenuto, ma non possiamo chiudere gli occhi sulle denunce che Amnesty International ha diffuso in questi giorni proprio sul paese dei faraoni. Proprio perché i faticosi passi del nuovo Egitto verso un sistema democratico vanno incoraggiati, è bene non tenere basso l'allarme che merita una denuncia di Amnesty International su test di verginità ai quali sarebbero state sottoposte donne scese in piazza dopo la caduta della trentennale presidenza illiberale di Hosni Mubarak. Secondo le informazioni raccolte dall'organizzazione non governativa, attiva in oltre 150 paesi, il 9 marzo scorso i militari che hanno caricato una manifestazione nella piazza Tahrir del Cairo non si sono limitati a mettere agli arresti almeno 18 delle partecipanti. Queste donne, ha riassunto Amnesty, hanno raccontato di essere state picchiate, sottoposte a scariche elettriche, obbligate a denudarsi mentre i soldati le fotografavano e infine costrette a subire un test di verginità sotto la minaccia di essere incriminate per prostituzione. Una donna che si è dichiarata vergine e che non sarebbe risultata tale secondo le sconce verifiche dei controllori della sua illibatezza, poco conta se in camice bianco o divisa, avrebbe subito un pestaggio e scariche elettriche. Brutalità del genere non sono una novità di questa stagione di democrazia egiziana, ancora da costruire e con davanti a sé un percorso né breve né lineare. Fuorviante, irresponsabile sarebbe oggi prendere a pretesto la denuncia di Amnesty per sostenere che il popolo egiziano stava meglio prima. Mubarak avallò condanne a morte. Le sue prigioni non vengono ricordate per condizioni civili. Non vanno dimenticate le sue elezioni finte, le sue intimidazioni sistematiche verso il formarsi di opposizioni, come ne esistono nelle democrazie. È però un dovere, per chi difende i valori di un vivere libero e civile, e per i governi occidentali, far presente ai militari egiziani che metodi e torture come quelli descritti non aiutano i paesi amici ad aiutarli. Sono sevizie, stupri di Stato, strascichi di orrori, comunque da estirpare. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Maurizio Caprara, Amnesty contro il Nuovo Egitto, pubblicato dal Corriere della Sera del 24 marzo. Nel corso dei festeggiamenti per il 150esimo dell'Unità d'Italia sono stati ricordati tanti eroi. Eppure qualcuno si è dimenticato dei nostri cavalli, del nostro cavallo nazionale, il cavallo della razza governativa di Persano. A salvare la razza fu un siciliano, scongiurando così l'estinzione. Tra i protagonisti dimenticati nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia c'è un quadrupede a lungo sacrificato. È il nostro cavallo nazionale, il cavallo della razza governativa di Persano. Attacca al Duino Ventimiglia di Monteforte, 55 anni, zootecnico degli equini, discendente da illustre stirpe siciliana. È stato usato in tutte le battaglie, nella prima e seconda guerra mondiale fino alle ultime gloriose cariche della nostra cavalleria in Russia. Le altre nazioni, dalla Francia alla Germania, dalla Russia alla Spagna, sono fiere dei loro cavalli, mentre l'Italia non difende i suoi, anzi, li importa dall'estero. Persino i corazzieri, guardia d'onore del Presidente della Repubblica, montano solo cavalli irlandesi. Da anni, Ventimiglia si batte per salvare dall'estinzione i cavalli di Persano, una delle più antiche razze d'Europa, voluta da Carlo di Borbone, re di Napoli e delle Due Sicilie, allevata dal 1742 nella Real Tenuta di Persano, Salerno. 3.500 magnifici ettari tra i fiumi Sele e Calore, ora del demanio, in uso all'esercito. Criniera folta, collo muscoloso, garrese pronunciato. Goethe scrisse di non aver mai visto cavalli così belli. Nel 1980 il presidente Pertini raccomandò di salvare gli esemplari sopravvissuti non solo alle guerre, ma ai decreti di ingrati politici e burocrati. Abbiamo già perso ottime razze come la Salernitana o i carrozzieri di San Rossore, dice Ventimiglia. Con tutto il settore in crisi, i pochi allevatori rimasti ormai hanno solo cavalli stranieri. Invano ho provato a spiegare che la razza di Persano è un patrimonio nazionale da salvaguardare. Alla fine ho fatto quello che avrebbe dovuto fare lo Stato. Oggi sono l'unico al mondo a possedere 80 cavalli di Persano. Rewind. Battuti gli asburgici, Carlo di Borbone voleva cavalli più veloci e resistenti, ma in casa aveva solo le razze napoletana e siciliana. Per sconfiggere i pirati, vero flagello nel sud, mandò un antenato di Alduino, Giovanni VI di Ventimiglia, a trattare con il sultano, che regalò al Borbone 4 stalloni orientali. Nacque così la Real Razza. Nel 1874 il ministro della guerra Ricotti ordinò la soppressione degli incolpevoli cavalli, orgoglio degli sconfitti borboni. I piemontesi erano abilissimi nella guerra ma poco ferrati in cavalli, sostiene Ventimiglia. Nel 1900, quando l'esercito s'accorse che ne aveva bisogno, fu ricostruita questa razza. Cambio di marchio e i cavalli vanno in guerra. A Persano l'allevamento offre lavoro a centinaia di persone. Domatori, sellai, le maestranze più esperte d'Italia, dice Ventimiglia. Ma l'odissea dei cavalli nati al sud continua. Nel 1971 il ministro della difesa Tanassi decide che a Persano debbono andare i carri armati. La mandria inutile per le moderne guerre è deportata al centro allevamento militare di Grosseto. In Maremma, un delitto. I cavalli devono stare dove sono nati, non solo. Cominciarono a incrociarli con puro sangue inglesi. Ottimo cavallerizzo, militare di leva a Grosseto, Alduino inizia la sua sfida equina. Si laurea in agraria con una tesi sul Persano. Compra le aste e fattrici e rintraccia in Sicilia gli ultimi stalloni, Picciotto e Pascià. Grazie al generale Ortu, comandante del corpo veterinario, dal 1986 al 1989 fa, gratis, i piani di accoppiamento per l'esercito. Nacquero esemplari stupendi. Mandato via Ortu, il nuovo comandante ordinò di castrare tutti i maschi. Per fortuna possedevo dei maschi interi. Deciso a riportare i cavalli sulle rive del Sele, Alduino Ventimiglia, nobil romantico zootecnico, ha pronto un libro sulla travagliata storia. Intanto, ha trovato alleati in Antonio Gallotta, leader dell'associazione Persano nel Cuore, e la provincia di Salerno. Basta che l'esercito ceda 1000 dei 3500 ettari per far rinascere un luogo fantastico e creare posti di lavoro. I cavalli e la gente di Persano lo meritano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Alduino, l'uomo che salvava i cavalli, di Chiara Beria, dalla stampa di sabato 26 marzo.